want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica. DJ Jet Telesco. Pronti per un altro appuntamento del nostro Soundcheck. Siamo arrivati alla puntata numero 133 della nostra prova del suono su Radio 24. Buon pomeriggio a tutti voi da GG Telesforo e buon pomeriggio a mio carissimo amico. Noi ci siamo conosciuti nel 1989, quando in televisione c'era un programma dedicato alla musica, un programma intitolato Doc, e in una settimana particolare, molto avvincente, piena di musica, con la partecipazione di Pat Metheny. Ed è lì che ho conosciuto il mio amico Luigi Viva, che è un, come posso dire, il biografo ufficiale a livello internazionale di Pat Metheny. Buon pomeriggio Luigi e benvenuto al Soundcheck. Buon pomeriggio a tutti. Difatti è un bel ricordo, anche perché lì c'era quello che io considero un po' il mio maestro, perché la mia formazione musicale la devo molto a Renzo Arbore e ai suoi programmi, insomma, questo fuori di dubbio. Fu una 3 giorni strepitosi, 3 giorni che Pat passò a Roma. E nonostante le esibizioni live da Doc, la sera suonò anche in un club jazz in trio, facendo delle cose molto estreme, ma molto belle e molto interessanti, come quasi sempre accade, perché è un grandissimo, grandissimo, insomma. Allora, io approfitto della tua presenza per tornare ad ascoltare la musica di Pat Metheny, che abbiamo celebrato qualche settimana fa approfittando della pubblicazione del nuovo album Keen, ma oggi vorremmo approfondire proprio il discorso su questo eccellente musicista, che nelle sue band ha sempre coinvolto musicisti di grandissimo livello, a partire dalla collaborazione con il suo amico Lyle Mace. Ma intanto parliamo di Pat Metheny. Tu, per realizzare anche il libro che hai scritto, tra l'altro adesso è stato ripubblicato, Una chitarra oltre il cielo, Luigi Viva ci racconta la musica di Pat Metheny, hai anche incontrato parte della sua famiglia. Che famiglia, da che famiglia viene Pat Metheny? Ma è una famiglia di musicisti, perché il papà era un trombettista, ma soprattutto la figura di riferimento è questo nonno straordinario trombettista, nella cantina del quale trovò, diciamo, l'antenato dell'orchestra, in questi piani con il disco forato, no, che facevano musica. Lui dice: rimasi colpito da questo aggeggio, tant'è che poi qualche anno fa, 3 o 4 anni fa, lui ci ha proposto Orchestron, che è un po' l'espressione, diciamo, l'elaborazione di questa idea che è nata nella cantina del nonno Delmar Hansen, che era un trombettista prodigioso. Difatti loro sono tutti musicisti, tutti trombettisti, il papà, il fratello, e anche Pat ha suonato la tromba, e lui dice sempre che tutti i grandi musicisti hanno suonato la tromba, e questo lo si percepisce nel suo stile, che è particolarmente vocale, ha il breath, come si dice, il respiro del trombettista. Ma che musica fa Pat Metheny? Perché lui è un appassionato di jazz, viene dal jazz, l'ha ascoltato, conosce il blues, conosce tutta la musica, ma poi col Pat Metheny Group ha spaziato anche sull'etnico, su ritmiche a volte molto complesse, mantenendo un aspetto melodico importante. Che musica fa Pat Metheny? Ma Michael Brecker una volta mi disse che lui è il re del king of lyricism, della liricità, no? Quindi questo è fuori di dubbio. Però è una persona estremamente curiosa e essenzialmente un jazzista. Però credo che negli ultimi anni la cosa che un po' l'ha influenzato di più, l'ha colpito di più, è la musica minimale. Quindi l'esperienza con Steve Reich, anche se dico a tutti, per conoscere, capire da dove viene Pat Metheny, bisogna ascoltare New Chautauqua. Lì c'è il perché dello stile di Pat Metheny, cioè l'unione del country con il jazz. Lui nasce lì, viene da lì. E poi dopo tutti gli altri dischi, che sono tutti bellissimi. Allora, partiamo con la musica, partendo proprio dall'ultima produzione. Torniamo ad ascoltare Keen. Mi dirai che cosa ne pensi di questo album. Il brano è bellissimo e si intitola We Go On. Pat Metheny, Unity Group, al Soundcheck di Radio 24. We'll be right back. Pat Metheny, Unity Group, nuova produzione per lui, l'album si intitola Keen, il brano era We Gone. Nostro ospite Luigi Viva per tornare a parlare della musica ma anche della figura di uno dei musicisti contemporanei più importanti. Soundcheck. Il suono della musica. Ramp, un altro album capolavoro, 1981, Pat Metheny Group, il brano era James, con un solo splendido di Lyle Mace, compare, fratello di tantissime avventure con Pat Metheny, si completano e si stimolano a vicenda. Quanto è stato importante e importante il lavoro di Lyle Mace per la musica di Pat Metheny, Luigi? Ma lui è straordinario come orchestratore e arrangiatore, poi è un pianista eccezionale, perché il 90% dei soli di Lyle Mace sono sul piano acustico, e in questo brano credo che faccia uno dei suoni più belli, dei soli più belli di tutta la sua produzione, no? È un brano dedicato a James Taylor. James è dedicato a James Taylor. Difatti James Taylor, quando lo intervistai proprio per il libro, mi raccontò, dice, io non sapevo che l'aveva dedicato a me, ma mi aveva colpito. Poi dopo negli anni si sono incontrati e hanno anche lavorato assieme. Allora, tu per scrivere il libro Una chitarra oltre il cielo hai avuto e ottenuto l'approvazione di Pat Metheny, lo hai incontrato più volte, l'hai anche avuto a cena, caratterialmente come questo ex ragazzo, visto che ad agosto compirà 60 anni. Ma lui è molto preso dal lavoro, è molto pragmatico, molto meno sorridente di quello che sembra nelle fotografie, no? Probabilmente anche il peso della responsabilità di gestire tantissime persone che lavorano con lui, dei progetti che gli vengono continuamente richiesti, perché dato di fatto è che è una delle star del jazz, quindi lui mira sempre a progetti interessanti, a nuove cose. E stupisce sempre, perché ogni disco rappresenta una novità. Ultimamente abbiamo parlato prima di Orchestrion, anche adesso questo Keen, no? Questa rivoluzione nella sua band con l'ingresso di un musicista italiano che noi tutti non conoscevamo, che sono 10 anni che è lì in America, che pare sia strepitoso e che sia arrivato a Pat per una serie di circostanze, la segnalazione di un musicista italiano, Don Disa, e soprattutto Will Lee, che l'ha segnalato, che è uno dei grandi della musica americana. Quindi direi che il messaggio proprio forte di Pat è questa completa dedizione, questo completo senso di disciplina che ha nella musica. Lui studia la chitarra come quando era ragazzo, cioè questo secondo me è proprio la differenza che c'è fra un grande e un buon musicista, la completa dedizione alla sua musica, al suo lavoro. Infatti c'è anche un aneddoto legato alla sua, al suo periodo italiano a Sant'Anna Resi con una ottima band italiana. Me lo puoi raccontare? Sì, diciamo che io vorrei evitare di fare i nomi. Comunque no, durante la presentazione del libro della edizione precedente, il 2003, Roberto Gatto, che è un grandissimo musicista, dall'altro poi ha suonato più volte con Pat, no? Disse, ma lui dice sta sempre a suonare, dice, noi stavamo in spiaggia, dice, lui era in albergo a studiare le partiture, le parti del concerto. Beh, questo un po' è l'approccio di Pat Metheny, no? Difatti anche Paolo Damiani mi ha raccontato quando si è messo lì non so quante ore con la sua synth per cercare poi di rifare il suono delle Launeddas, che è una cosa impossibile. Dice, alla fine lui ci è riuscito, difatti lo racconta nel libro, per dire, cioè, questa curiosità che ha Pat, questo amore, questo interesse per la musica che veramente stupisce ora che ha quasi 60 anni, però fa la differenza, insomma. Ecco, la curiosità di Pat Metheny è anche nell'andarsi a cercare i nuovi talenti, e diversi anni fa abbiamo scoperto, proprio per merito di Pat Metheny, una vocalist polacca, bravissima come cantante e anche donna meravigliosa, di una bellezza quasi da top model, e stiamo parlando di Anna Maria Jopek. Che tipo di progetto hanno realizzato? In pratica la Jopek, unitamente a alcuni inediti, ha voluto riproporre con la lingua polacca, che poi si è rivelata molto musicale, alcuni brani della produzione di Pat Metheny. Questo secondo me è uno dei più bei dischi mai realizzati da Pat Metheny, perché qui fa dei soli, degli interventi, degli arrangiamenti strepitosi. È un disco bellissimo. Io ho conosciuto Anna Maria, è venuta una volta a Roma alla Casa del Jazz, ed è una cantante strepitosa, simpaticissima, sa tenere il palco come pochi, e devo dire che questi musicisti polacchi sono formidabili. Allora, Anna Maria Jopek, Pat Metheny da Hupo Geni, il brano famosissimo Are You Going With Me? Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il Soundcheck di Radio 24, oggi Luigi Viva, appassionato di Pat Metheny, autore di questo importante libro che racconta le vicende musicali di questo eroe contemporaneo della musica, libro intitolato Una chitarra oltre il cielo, che ormai viene stampato in giro per il mondo, grandissimo successo in Francia, e quindi oggi un'altra puntata per celebrare la musica di Pat Metheny insieme a Luigi. E Pat ha anche la passione per le ragazze, mi sa che, perché quando venne ad hoc lui mi disse: guarda Gege, non abbiamo mai suonato così bene. Io gli chiesi: ma come mai, Pat, con tutti i concerti che avete fatto, ti devo dire che la presenza del pubblico femminile è stata molto importante e stimolante per noi. Beh, pare che sia una delle sue passioni, però voglio dire, nel libro queste cose non vengono, perché lui è molto riservato, contrariamente a quello che appare. Comunque è un appassionato di cose belle, mettiamola così. Ma è un, diciamo che è un vizio comune, se vogliamo chiamarlo vizio. Anche Fabrizio D'Andrea è un appassionato delle belle donne, e in comune con Pat aveva poi l'amore per Jim Hall, tant'è che pochi sanno che Fabrizio, l'ultimo disco che stava preparando, lo stava preparando ispirandosi al disco del Jimmy Giuffre Trio, perché c'era Jim Hall, aveva dato proprio incarico ai suoi musicisti di lavorare su quel versante lì. Quindi, tra l'altro, Pat aveva intenzione di fare un concerto in ricordo di Fabrizio a Ombria Jazz per il corso del trentennale, poi la cosa non andò in porto. Però per dire che il jazz è una cosa fondamentale per tutti i grandi musicisti, dietro hanno qualche contatto con la musica jazz, non si scappa. Sì, tanto per scherzare, ma tu che sei amico di Pat Metheny, non gliel'hai mai regalata una camicia, così tanto per evitare di fargli indossare sempre questa magliettina a maniche lunghe con le righe orizzontali? No, in verità io anni fa gli regalai una maglietta originale a righe dei gondolieri veneziani. le camicie non ci ho mai pensato, insomma, perché lui mi aveva detto, dice sì, uso solo queste perché quelle a righe verticali potrei sembrare un prigioniero, insomma un detenuto, e scoppio a ridere, perché ha anche, devo dire, un buon senso of humor. Allora, ascoltiamo ancora dalla discografia infinita, quanti album ha fatto? Guarda, fra album e partecipazioni siamo oltre 100 dischi. Allora, l'album è One Quiet Night, un album di chitarra acustica, solo chitarra, e qua c'è la sua interpretazione di un successo pop, quello cantato da Norah Jones, ovvero Don't Know Why, brano composto da Jesse Harris. Pat Metheny al Soundcheck. E siamo ai saluti con Luigi Viva, grazie per la partecipazione Luigi. Io naturalmente voglio raccomandarvi la lettura di Una chitarra oltre il cielo per conoscere Pat Metheny in tutti i suoi aspetti, da quello discografico, musicale, la mentalità, i incontri e anche i grandi artisti che ha lanciato. E fra i grandi musicisti che ha lanciato Pat Metheny c'è uno che purtroppo è scomparso nel 2004 per un infarto, il bravissimo polistrumentista, cantante, trombettista, chitarrista, suonava di tutto anche lui, e si chiamava Mark Ledford. Infatti ha fatto bene a ricordarlo, una splendida persona, un musicista straordinario. Sere fa, ti accennavo prima, stavo riascoltando un DVD del Pat Metheny Group che è stato di recente pubblicato, dove c'è lui e Dave Blemmers nella formazione, e c'è una versione di This Is Not America che è stupenda proprio per i vocalizzi di Mark. Quindi è anche un modo di ricordare non solo lui ma anche quelli che hanno fatto parte negli anni di questa straordinaria band. Penso a Nana Vasconcellos, a Pedro Aznar, che è una delle mie passioni, è un musicista che ha una voce straordinaria, è un grandissimo musicista. Quindi è tutta una serie di personaggi che comunque hanno contribuito con la loro arte, con la loro musica, a far sì che Pat Metheny rimanesse quello che attualmente è, insomma. Quindi adesso speriamo anche in questa bella storia di questo italiano che avremo adesso occasione a giugno di vedere in tour in Italia col Pat Metheny Unity Group. Quindi speriamo bene, che comunque lunga vita a Pat Metheny, direi, insomma. Assolutamente sì, e grazie Luigi per la partecipazione, ci rivediamo prestissimo, magari in giro per concerti. E allora chiudiamo con Mark Ledford, una sua composizione, Way I Feel, e da eccellente polistrumentista suonò in studio di registrazione tutto lui. Una canzone molto godibile, piacevole, con la quale noi ci salutiamo, ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 24. A tutti voi buona giornata e buona musica da Gegé Telespero. Touch me, my body gets weak. It isn't long before I'm burning, losing my mind. I feel my body start to travel, going in and out of time. It's just the way I feel. Soundcheck, il suono della musica.